Uno, vabbè, e puoi stare. Nessuno, meglio ancora, così non c'è contagio, ma 100.000 no. E no, no, 100.000 no, quello è assembramento, 100.000 non lo posso accettare. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Siamo qui, cari ascoltatori, ci siamo per una nuova puntata fino alle 11 di Uno Nessuno 100 Milan con tutta la nostra redazione, da Elisabetta Fusconi, che oggi ha un giorno un po' particolare, anche se lei non vuole dirlo, e noi quindi, visto che lei non vuole dirlo, siamo subito qui ad annunciarlo all'intero mondo. È il compleanno di Elisabetta Fusconi, signore. Ah, proprio... Che è sta musica? Ah, è una versione così di tanti auguri un po' spagnoleggiante. Vabbè, è il compleanno di Elisabetta Fusconi, quindi tutta la nostra redazione è in festa, ma anche voi, cari ascoltatori, potete mandare al 349-238-6666 i vostri auguri, anche in audio, via WhatsApp, alla nostra Fusconi, insieme a Miriam Lucchetti e a Lorenzo Nespoli in redazione. Con l'Alpino in regia siamo pronti con Leonardone Manera in arrivo dalle 9.30. Oggi abbiamo tantissimi ospiti, se ce la facciamo avremo con noi anche Andrea Bocelli, che ha annunciato ieri di aver avuto il coronavirus. Oggi, per esempio, è in apertura del quotidiano nazionale la sua foto mentre dona il plasma. Parleremo molto subito di scuola, la scuola, perché se c'è tanto da dire, insomma, di questa vicenda. E allora partiamo, dai Alpino, vai subito. Enthusiasm about the future. Allora, intanto volevo dire una cosa sulla questione della Lombardia, che forse è rimasta chiusa. Cari amici lombardi, ma tanto, scusate, guardate per esempio un articolo che ho letto dove, sul giornale, in Versilia estate al via, milanesi siete i benvenuti, però se anche state a casa... Puntini, puntini. Ecco, il tema è questo. Adesso c'è questo dibattito sulla Lombardia, se rimarrà chiusa una settimana, due settimane in più delle altre regioni. Tanto si è creato un tale clima di tensione nei confronti dei lombardi che io sinceramente non lo so se ho più voglia di andare in giro. Nel senso che come mi accogliereste, cari amici liguri, cari maledetti! Amici valdostani? No, maledetti noi, maledetti. Ecco, siamo maledetti noi, siamo ormai dei maledetti. Come mi accogliereste, cari amici siculi? Mi guardereste così con lo sguardo di dire: guarda, qui è arrivato il milanese, cioè, a portarci il virus. Figurati se mi avvicino a quello lì che chissà cosa ci avrà addosso. Ecco, non lo so. Rileggo oggi solo tre righe di Massimo Gramellini sul tema scuola, che affronteremo subito. Anzi no, lo leggo tra un attimo, ecco, vorrei capire se mi conviene da milanese, quindi lombardo, andare in giro, perché a questo punto si è creato un clima di terrore nei confronti dei lombardi, che se anche aprissero le frontiere ideali, virtuali, per il passaggio da regione a regione dal 3 giugno, da mercoledì, non lo so, cioè io vado anche a fare un giro in Veneto, vado anche a fare un giro in Toscana, vado anche a fare un giro in Emilia Romagna, ma come mi accogliete? Cioè, quando dico sono di Milano, non so, cioè mi rivolgete la parola? Perché si è creato ormai questo clima di terrore. No, la questione Parmitano la teniamo più avanti, quando arriva Manera, perché Manera è un noto complottaro. Allora, tutta la vicenda dell'astronauta Luca Parmitano la teniamo più avanti. Voglio subito gettarmi sul tema della scuola, che è molto interessante. Oggi Massimo Gramellini dedica il caffè al fatto che il comitato scientifico ha negato la possibilità di fare l'ultimo giorno, anche solo l'ultimo giorno in classe o all'aria aperta, per coloro soprattutto che finiscono un ciclo scolastico, chi finisce le elementari, chi finisce le medie, vabbè, per i licei e le classi superiori c'è la maturità, è un'altra questione. Perché il comitato ha detto così? Perché è rischioso, e giustamente Gramellini dice non se ne può più ormai. C'è gente, c'è una frangia di ribelli che ricomincia ad avere più voglia di vivere che paura di morire. Ecco, teniamo conto, non si tiene mai conto di questo aspetto psicologico, che è, ripeto, altrettanto importante dell'aspetto sicurezza sanitaria, che è anch'esso molto molto importante. Allora, io quando ho letto però che sul fronte scuola succederà questo, è un'ipotesi già oggi parzialmente smentita, che forse si andrà in classe per le elementari e le medie, mentre i licei o gli istituti superiori forse potrebbero iniziare con la didattica online. Mi chiedo, ma perché? Perché per i bambini delle medie e elementari è importante socializzare, e perché? Perché per i ragazzini e gli adolescenti non è importante socializzare. Io ripeto, uno Stato che in 6 mesi, da marzo quando è arrivata l'epidemia, da 6 mesi a settembre, da marzo a settembre, non riesce in sicurezza a riaprire gli istituti scolastici, ragazzi, cioè, per me è uno Stato che non ce la fa, è uno Stato prefallito o quasi. Però voglio salutare intanto 2 ospiti, torna con noi il maestro elementare Mauro Presini, provincia di Ferrara. Buongiorno maestro Presini. Buongiorno Alessandro e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Lui ha un blog seguito, ripeto, Like a Rolling Stone, lo trovate, si tratta di tanti temi della scuola. Saluto anche l'ingegnere elettrotecnico che insegna elettrotecnica in provincia di Messina, Aldo Domenico Ficara. Buongiorno professore. Buongiorno, e grazie. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Lei ha creato anche un gruppo Facebook Maturità 2020 online. Allora, perché lei e i professori dicono presentarsi fisicamente non è il caso. Non è il caso. Non è il caso perché? Per una questione di sicurezza. Sì, è una questione di sicurezza. Cioè, noi come gruppo siamo quasi 7.000, qui ci tengo a fare una precisazione perché ieri sul Corriere della Sera è uscito un articolo che ci definisce come gruppo Facebook dei siciliani. Ecco, non è vero, perché siamo un gruppo... Siete italiani. Questo è, noi vogliamo dare un messaggio di solidarietà a tutti per il territorio nazionale, perché il territorio nazionale è stato investito da questa bufera del coronavirus. Certo. E siamo, dice il Corriere della Sera, che siamo solo 500, siamo 7.000. 7.000 e molte persone. Cosa chiedete? Chiedete di fare tutto in sicurezza e quindi di fare online. Però siamo aperti anche a fare l'esame in presenza, ma però deve essere fatto a sicurezza assoluta. Questo siamo tutti d'accordo, certo, esatto. Nessuno vuole mettere a rischio la sicurezza di nessuno, né di studenti né di professori. Ok, quindi discutiamo in modo costruttivo sul fatto che il rischio biologico all'interno degli edifici scolastici sia nullo. E quindi attualmente Ministero e sindacati si stanno dando da fare per creare un protocollo di sicurezza che dia garanzie verso questo rischio biologico zero. Nascono dei dubbi su quanto si scrive, si legge nei mezzi di informazione, perché ad esempio non si parla di sanificazione degli ambienti della scuola, ma si parla di pulizia straordinaria. Voi temete che non vi fidate tantissimo, ecco, non vi fidate della possibilità. Non è una questione di fidarci, cioè noi non siamo contro, noi proponiamo, suggeriamo, elaboriamo un qualcosa affinché si arrivi a un risultato, secondo me, che si arrivi a fine luglio tutti sereni, tutta la comunità scolastica serena, insegnanti, genitori e soprattutto i ragazzi sereni, no, ma guardi, no, e in su salute. Questo non c'è dubbio, però mi faccia sentire maestro Presini. Aspetta, mi faccia sentire il maestro Presini. Allora, Presini, io ho questo, cioè io l'ho detta così, sono uno poi ogni tanto poi dico delle cose urticanti. Se dico uno Stato in sei mesi che non riesce in grado di far ripartire la scuola in sicurezza è uno Stato fallito. So che sono molto duro, so che c'è un problema di edilizia scolastica, di classi pollaio, ci sono mille problematiche. Però possiamo andare avanti, Mauro, con questa didattica a distanza, o meglio le elementari, le medie no, il liceo sì, che scuola è? Alessandro, io sono assolutamente, completamente d'accordo con la tua analisi. Uno Stato che in sette mesi, perché cioè dalla fine febbraio a settembre, non trova il modo per definire un orizzonte per la scuola, dimostra dei limiti fortissimi. Io sono convinto di una cosa, che se ci fosse la volontà, la convinzione che la scuola è la leva, è il futuro di questo paese, ci si dovrebbe impegnare non solo a livello nazionale ma anche a livello dei comuni. I comuni perché non si sono ritrovati, magari, cioè io conosco una situazione parziale, può darsi che da qualche parte sia già avvenuto, ma perché i comuni non si sono, hanno cominciato ad attivarsi per trovare quegli altri locali, degli altri modi? Io sono convinto che questa occasione di emergenza debba far scommettere su una scuola nuova, su una scuola diversa, su una scuola che si apra al territorio, come era anni fa, su una scuola che, cioè, da più di un secolo c'è una cosa che non è cambiata nella scuola: le aule, i banchi, le sedie, le lavagne. Esatto. Si può far scuola in un altro modo? Assolutamente sì. Prendiamo queste emergenze e proviamo a costruire una scuola diversa, che diventi la, fra virgolette, normalità, in una situazione che sia capace di tener conto delle incertezze del futuro, dei rischi. Si imparano anche queste cose qua, il che non vuol dire che bisogna avere delle sicurezze, delle certezze, ma bisogna imparare a convivere anche con il rischio, con l'incertezza. Sì, il problema, come dicevi tu, è questo, cioè bisogna mettere la scuola al centro, è importante, certo, far ripartire l'economia, far ripartire, dare soldi alle persone, far ripartire le attività, e invece sembra che la scuola, sì, ci si arriverà con calma, invece la scuola è l'elemento fondamentale di una società. Quando sento che ad esempio miliardi e miliardi dati a qualche industria automobilistica nazionale, poi mi fermo per non fare troppa polemica, e poi per la scuola siamo ancora fermi a questo livello qua, non è concepibile, ci sono un sacco di locali, un sacco di spazi aperti su cui la scuola può e deve partire in presenza. La didattica a distanza è stata un rimedio, non può essere la normalità. Sull'ultimo giorno di scuola, ad esempio, io sono convinto che in questo momento il comitato non possa aver dato giustamente la possibilità di farlo lì, ma io personalmente un paio di giorni fa ho scritto al mio sindaco dicendo: io ho la classe quinta elementare, noi vorremmo provare a salutarci almeno l'ultimo giorno, stiamo costruendo un video in alternativa, però vorremmo salutarci in presenza. Ci sono problemi se noi ci troviamo in un parco pubblico, non in una scuola, in un parco pubblico, rispettando la distanza, tenendoci le mascherine, sto aspettando due giorni che ho scritto, la cosa migliore è che vi troviate, tanto si può fare una passeggiata in un parco, vi troviate a distanza in un parco autonomamente, cioè, perché certo, uno alla fine fa così. Però, che ne pensi dell'idea, all'elementare, alle medie c'è bisogno di socializzare, al liceo sì, anche, però magari si può iniziare con la didattica a distanza. Secondo me a 14 anni, tra l'altro una classe nuova, un'esperienza nuova di 5 anni, è fondamentale vedersi professori nuovi. Assolutamente, e non può essere che in un qualche modo il fatto di legittimare la didattica a distanza come modo di far scuola, secondo me è cattivo, è un cattivo modo di interpretare la scuola, perché anche i ragazzi hanno bisogno di essere in presenza, anche i ragazzi hanno bisogno di viversi direttamente lì. Sono molto preoccupato che questo aspetto della didattica a distanza ripeto, che è stato un rimedio necessario in questa emergenza, diventi un elemento fondamentale del far scuola, perché questo vuol dire lezioni frontali, e le lezioni frontali dal punto di vista pedagogico sono vecchie, vecchie, vecchie e antiche, non possono certamente garantire un apprendimento efficace all'altezza dei tempi che stiamo vivendo, per cui bisogna fare uno sforzo perché tutti possano tornare a scuola, nelle modalità diverse, insomma, però che tutti debbano tornare a scuola in presenza. Va bene, allora io intanto nel salutare, e vedremo la maturità, Mauro stai con noi, saluto certo. Aldo Domenico Ficara e lo ringrazio per la questione, gruppo Facebook lo trovate così, Maturità 2020 online, mentre Mauro grazie Presini, maestro elementare che rimane qui, e chi è il sindaco a cui hai iscritto Mauro? Alan Fabbri è un sindaco della Lega, ah, è un sì, sindaco che... Sindaco che non ho votato, sindaco, ma che in un qualche modo rappresenta l'istituzione alla quale io mi rivolgo per chiedere la possibilità di trovarsi in un parco pubblico per fare almeno questo saluto dell'ultimo giorno di scuola. Ecco. No, te lo chiedevo perché noi abbiamo adesso un altro sindaco, che è la sindaca di San Lazzaro di Savena, siamo a Bologna, Isabella Contini, buongiorno sindaco, grazie di essere Conti. Qui. Buongiorno. Conti, mi scusi, tra l'altro si chiama come la insegnante dei miei figli, quindi avrei dovuto saperlo, colpa doppia. Allora, sindaco, lei ha provato a dire, è stata una delle prime a dire vogliamo fare l'ultimo giorno di scuola salvando, come dire, almeno quest'ultimo giorno. Il comitato scientifico ha detto no, questi scienziati rigorosi giustamente rispettano, ha detto di no. E quindi? Beh, non è proprio così. Noi, il comitato scientifico non ha detto no all'incontro nel parco, il comitato scientifico ha detto di no a una proposta che l'ultimo era stata giorno, avanzata, certo. Sì, però di farlo all'interno delle scuole o all'interno di musei, quindi era evidente, io mi immaginavo che non sarebbe stato possibile farlo all'interno delle scuole perché c'è un vero e proprio problema anche di gestione dei flussi di ragazzi, di assembramento, cioè da amministratore locale. Che siamo come amministratori siamo costretti a stare sempre, diciamo così, a rimanere molto pragmatici, era evidente che questo sarebbe stato impossibile. Certo. Mentre invece, sì, ma lei l'ha proposto al parco, infatti, su questo, esatto. Su questo come la risolvete però? Perché cioè dovrà fare un'ordinanza a questo punto? Lui. No, assolutamente, non c'è nulla da risolvere perché il comitato scientifico si è espresso su una cosa completamente diversa e quindi un'uscita al parco di una classe per volta, quindi 20 ragazzi distanziati da hula hoop, cioè da cerchi che noi abbiamo già preventivamente messo, predisponiamo a terra per il loro arrivo, loro potranno sedersi all'interno di questi hula hoop che essendo già distanziati e poi i ragazzi avranno la loro mascherina, potranno garantire una sicurezza assoluta. Abbiamo un protocollo molto rigoroso che abbiamo discusso e che facciamo eseguire anche con la nostra polizia municipale, nel senso che dirigerà in modo ovviamente gioioso, però dirigerà il traffico tra virgolette dei ragazzi, che dovranno essere accompagnati da un genitore, questo anche per consentire che nella chiusura del saluto poi i ragazzi possano andare nelle loro case o comunque possano allontanarsi con i loro genitori, proprio per evitare che poi si ritrovino tutti nel parco 10 minuti a fare dopo. Assembramento. Esatto. e quindi in totale sicurezza, però sarà così, ma mi scusi, no, ma burocraticamente è ultimo giorno di scuola o è una festa così autonoma? Perché cambia un pochino, no, è credo, no? Dell'amministrazione comunale, ecco, sì, infatti, appunto, è un'iniziativa dell'amministrazione comunale che solleva quindi, diciamo, il tema scuola ministeriale, eccetera, ma consente agli studenti e agli insegnanti che partecipano, devo dire, con uno slancio commovente, di potersi salutare. È un saluto che durerà una decina di minuti, un quarto d'ora, però è un momento quasi solenne e che io vorrei evocare come poetico, cioè un momento in cui i ragazzi si siedono su questi cerchi e si possono finalmente guardare in faccia tutti insieme e salutare, come quando erano in classe. E no, ma è un chiaro, cerchio, certo, noi sindaco li ha privati di tutto e quindi le istituzioni, guardi, il tema è questo, noi dobbiamo dire ai nostri ragazzi che noi, loro sono stati bravissimi, resilienti, generosi e capaci. Anche le istituzioni devono dimostrarsi all'altezza in questo senso, Anche le istituzioni devono dire a questi ragazzi che vengono messi prima di tutto, perché ora siamo noi che dobbiamo rispondere a loro e dimostrare a loro che siamo autorevoli, capaci di gestire i flussi e questi piccoli incontri, perché non è niente di trascendentale, e però di consentire a loro di avere la dignità della chiusura di un cerchio. Ma io sono assolutamente d'accordo con lei, credo che anche il nostro maestro elementare Mauro Presini sia in solluchero forse a sentire questa completamente ed assolutamente d'accordo. Sì. E quindi Mauro, non ti resta che trasferirti a San Lazzaro di Savena, insomma. Ma io spero, ripeto, cioè, ho fatto questa battuta, per carità, il sindaco non me ne voglia, insomma, abbiamo posizioni diverse, ma nulla vieta che in questo momento qua, se la priorità deve essere la scuola e le relazioni fra gli insegnanti, almeno le classi finali della scuola materna, della scuola elementare, della scuola primaria, insomma, e della secondaria di primo grado, ma anche le altre, insomma, a seconda dei territori. Cioè, voglio dire, io insegno in una piccola scuola, Cocomaro di Cona. A Cocomaro di Focomorto, che è a 500 metri a piedi, ci sono due parchetti, uno un vecchio campo di quelli dove da giovani si giocava a pallone, eccetera. La possibilità, l'aperto c'è, però mi sembra simbolico chiedere al sindaco il permesso di poter fare questa roba qua, perché credo che nulla vieta, se ci si mette d'accordo, di trovarsi, che ne so, nella piazza Ariostea, dove sono in questo momento, per trovarsi. Come però, ci ha spiegato il sindaco di San Lazzaro di Savena, insomma, si può fare, cioè l'amministrazione comunale ovviamente non è più un giorno di scuola tradizionale secondo burocrazia, ma una festa organizzata dall'amministrazione. Poco cambia i bambini, chi, no? I bambini si possono incontrare. Ma certo, l'amministrazione comunale, che è proprietaria dei locali, degli edifici, che conceda questa cosa, diventa una cosa dal punto di vista metaforico molto importante, perché è come se valorizzasse anche gli altri ambienti. Il far scuola non si fa soltanto dentro le scuole, si può fare all'aperto, si può fare nei musei, si può fare, ma ripeto, in qualsiasi, nei vecchi cinema dismessi, eccetera, nel parco, che è di proprietà di tutti, un bene pubblico come la scuola diventa davvero una metafora potente, anche per richiamare gli enti locali ad un maggiore impegno rispetto alla progettazione del prossimo anno. Quali altri locali ci sono che possiamo usare? Quali altre priorità ci vogliamo dare? I trasporti scolastici, le mense, eccetera. Insomma, siamo un po' in ritardo, bisognerebbe darsi da fare un po' tutti, un a bel cominciare po', dal un piccolo. Bel po'. Allora, io nel ringraziare Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro di Savena, Bologna, nel ringraziare Mauro Presini, maestro elementare, ricordo il suo blog Like Rolling Stone, c'è un messaggio di un ascoltatore che dice che è un ascoltatore e anche un insegnante delle superiori, che scrive: non ho nessuna intenzione di costruire un rapporto con una classe nuova a distanza, è impossibile. E io sono d'accordo con questo insegnante dei superiori, e moltissimi ci scrivono, questo è il grande tema di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, poi bisogna stare attenti a dire queste parole, però se uno ragiona effettivamente il rischio contagio zero, come ci ha chiesto il professore in apertura, il rischio zero nella vita non esiste. Io abito in Viale Monza, il primo giorno che hanno riaperto al traffico c'era un povero pedone di 75 anni che camminava sul marciapiede, c'è stato un terribile incidente in Viale Monza, una carambola con una macchina sbalzata, era lì parcheggiata, sbalzata per una carambola di macchine, lo ha schiacciato e purtroppo ucciso sul marciapiede. Era sul marciapiede a camminare. È una tragedia incredibile. Il rischio zero, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vietare il traffico per arrivare al rischio zero di queste tragedie? Dobbiamo vietare i viaggi in aereo, perché un aereo su 10 milioni cade e quindi bisogna vietare gli aerei? Manera lo farebbe, anche Elisabetta Fusconi lo farebbe. Dovremmo vietare tutto. Se vogliamo il rischio zero, blindiamoci in casa, e dove c'è il rischio di cadere e pigliare contro lo spigolo della sedia e rompersi un ginocchio. Cioè, non esiste il rischio zero. Ha ragione Gramellini. Cioè, adesso la gente ha più voglia di vivere che paura di morire. Cioè, sicurezza, questo è fondamentale. Attrezziamoci, a cominciare dallo Stato, bene, noi comportiamoci bene e poi viviamo, perché sennò siamo morti dentro, che come molte volte dico è già peggio che essere morti fuori. Oh, adesso andiamo un attimo in pubblicità, così la penso io, ma chiamateci perché tra poco, quando rientriamo, ci sarà Leonardo Manera e sarà con noi il maestro Andrea Bocelli. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma io mi chiedo, se gli uffici sono costretti a fare la sanificazione, perché le scuole non fanno la stessa cosa? Il rischio zero non esiste. Non esiste in nessuna attività umana. Vadano a lavorare come ci vanno gli altri. Milan, se vieni a Reggio Emilia ti faccio le tigelle, io ti prendo. Tantissimi auguri Elisabetta, 60 anni portati benissimo. Milan, buongiorno. Io ho lanciato la campagna Abbraccia un milanese. Grazie, grazie. Leonardo Manera, buongiorno. Chissà come ci accolgono, no? Come ci accolgono? Buongiorno noi che siamo... a tutti gli ascoltatori di Radio 24 e tanti auguri a Elisabetta Fusconi. Perché parli così oggi? Si merita una bandiera di babà per il suo compleanno. Ma perché a volte dicono che Radio 24 è una radio troppo concentrata su Milano, su il nord? Allora oggi voglio parlare in questo modo per far capire che noi siamo amici vicini anche di Napoli e tanti auguri a Elisabetta Fusconi. Ti prego, Leonardo, vai avanti così fino alle 11, giusto a saperlo. Naturalmente fino alle ore 11, babà e sfogliatelle per il compleanno di Elisabetta Fusconi. Oi. Allora ti metto subito in un angolino, perché se vai avanti così immaginavo. Ecco, anche perché dobbiamo salutare, e lo facciamo con grande piacere, torna qui a Uno Nessuno 100 Milan il maestro Andrea Bocelli. Buongiorno Andrea, grazie di essere qui in diretta. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti, buongiorno Manera, buongiorno a tutti. Allora, Scherzo. Ero già visto per preparare la bambina alla sua giornata di lavoro. Certo, accidenti, abbiamo scoperto, abbiamo visto, che c'è stata questo Covid che vi ha colpito in famiglia. Intanto spero che stiate tutti bene adesso, mi sembra di poter dire. Sì. Non è stato né più né meno quello che accade quasi tutti gli anni con le influenze, che quando prendono uno poi dopo alla fine prendono quasi tutti, ecco. Sì. Allora, tra l'altro la notizia è venuta fuori perché Andrea Bocelli ha deciso di donare il plasma. Ne abbiamo parlato molto anche in questa trasmissione della plasmaterapia. Intanto la scelta come è stata istintiva? No, la scelta è che sembra, perché io sono solo un cantante, non sono un virologo e non sono un infettivologo. Sembra che questa cura sia efficace. Ho avuto modo di sentire anche l'opinione di Daria Capua, che conosco personalmente, e allora se funziona, perché no? Insomma, non costa niente dare un po' di sangue, anzi è una cosa che si fa volentieri, con grandissimo cuore. Però è un gesto. Oggi per esempio il Quotidiano Nazionale mette questa storia proprio in prima pagina, con il titolo Ad esempio, cioè proprio che sia di esempio, con l'invito facciamo tutti come Bocelli. Non è che sia un grandissimo esempio, non è che sono andato col moschetto a spalle a difendere la patria, mi sembra doverosa, mi sembra bella perché ci sono persone che realmente hanno subito un attacco feroce a questo virus, e allora da dove si può aiutare, ma è non solo doveroso, ma è anche piacevole farlo, bello. È una curiosità, quanto sangue bisogna donare per ottenere il plasma? Allora, è un prelievo normale di una fialetta? No, in realtà non si dona quasi, cioè, in realtà succede questo, quando si dona il plasma si vengono prelevati 600 cc di sangue, e dal quale viene prelevato una macchina stranissima, elettronica, il plasma, e poi ti viene rimesso nelle vene, reinserito nelle vene il liquido fisiologico. Di fatto Io speravo di aver perso un po' più di mezzo chilo, invece non ho perso niente. Ah, perché viene reinserito, ho capito. Sì, sì, viene reinserito il sangue privato di quella parte che verrà poi utilizzata per la terapia. Sì, perché a loro interessa prendere il plasma che contiene le difese immunitarie, praticamente. Certo. Quelle difese che si sono specializzate contro il Covid in questo caso, e quindi possono essere utili per chi lo sta combattendo. Andrea, c'è questo grande messaggio, oggi per esempio leggevo di Gramellini che dice: ormai la gente ha più voglia di vivere che paura di morire, ovviamente con il massimo rispetto per chi ha perso la vita, perché ce ne sono. Ma secondo me questo è assolutamente rispetto e la comprensione prima di tutto, perché ma questo è un po' come quando si deve... Noi non ci ricordiamo probabilmente quanti morti ci sono sulla strada tutti gli anni, no? Sì. E i morti della strada non hanno minor dignità. Così come i morti da fumo, non so, per fumo, quanti morti ci sono per il fumo tutti gli anni, no? E naturalmente lo Stato cosa deve fare? Deve cercare di organizzare il traffico in modo che muoiano meno persone possibile, così come deve dare delle regole per evitare che il fumo, cioè, intanto informare, poi fare in modo che il fumo non danneggi magari chi non lo pratica. Ma detto questo, non si può né rinunciare all'automobile né alla sigaretta chi fuma, insomma. C'è libertà in questo paese, no? Cioè rinunciare a vivere, non si può rinunciare a vivere, che questo è... No, questo non si può, e soprattutto non si può rinunciare ad amare come abbiamo sempre fatto, abbracciando un amico, dando la mano a un conoscente, a una persona, cioè chi... Non è che improvvisamente possiamo cominciare ad ignorarci, no? Vivere come degli automi o delle persone che vivono una vita virtuale anziché reale, no? Cioè, in fondo l'epidemia c'è stata, ma non è stata la prima e non sarà l'ultima. Certamente alcuni di noi ricorderanno l'epidemia del 56, quella del 68, che sono state ben più dure di questa, penso. Se quella del 56 non me la ricordo, non c'ero. Sì. Però quella del 68 qualcosa ricordo. Sì. Fu coniato quel detto che diceva: quando Mao sta a notizie, il mondo sta male, no? Sì, certo. È stato pauroso, è stato vissuto, l'avete vissuta con relativa serenità questa? No, io secondo i miei schemi di vita, quando ho ricevuto la notizia del mio tampone positivo, mi sono tuffato in piscina subito. Era il 10 di marzo. Ecco. Ma questo cane. L'hai raccontato anche ieri, ma perché ti sei tuffato in piscina? Cioè? Ma perché era un modo di reagire positivamente a questa cosa, che c'era questa si viveva proprio in quei giorni, iniziava il divieto a uscire di casa, no? Quindi c'era questa cappa pesante su ciascuno di noi che incideva sull'animo. Io penso che per combattere le malattie lo spirito è la prima cosa, no? Se ti abbatti, dopo soccombi. E allora, una cosa che ho fatto, vabbè, almeno se sono positivo, mi tuffo in piscina. Cosa mi che tuffo non in piscina. Quanto mancano ad Andrea Bocelli i concerti dal vivo? In un primo momento, niente, perché ero talmente stanco quando mi sono fermato che ho detto, ho sognato per tanto tempo un anno sabbatico, probabilmente stavolta è venuto il momento, no? Poi naturalmente non ho riflettuto sul fatto che invece poi l'uomo fa l'abitudine a tutto, no? E alla fine anche la mia vita di sempre mi manca, ha cominciato a mancarmi il rapporto col pubblico, ha cominciato a mancarmi persino il viaggio. E poi perché l'uomo fondamentalmente nasce libero, no? Ha bisogno della libertà come prima cosa. Il livello di dover stare in casa, per forza, è una cosa che non credo faccia per nessuno. Quindi, ho cominciato a sentire il bisogno soprattutto di musica, no? Di quella musica che si fa insieme a un'orchestra, insieme a dei colleghi. Cioè la mia vita, però. Ma può essere anche ispirazione questo momento, cioè hai composto qualcosa, hai creato qualcosa. Allora, sai cosa ho fatto? Mi sono messo a imparare ad operare Logic Pro, non so perché è un minimo manigliato con il computer. È un'applicazione praticamente che consente sulla carta di fare un disco da zero, no? Metti lì col tuo computer, apri delle tracce, impari a creare delle tracce e poi a registrare gli strumenti, a quantizzarli, fare tutte queste cose qui. Ed è un modo per tenere viva la mente, no? Certo. E mi sono usano molto i rapper, quindi forse i rapper si dà il rap, no Andrea Bocelli, non credo. Lavoro che ho realizzato, tra l'altro, dopo aver imparato l'ABC di questa applicazione, è stato quello di registrare tutta il pometto di Guido Gozzano, La signorina Felicita, e farci sotto poi un commento col pianoforte, un commento musicale col pianoforte. Mi sono divertito moltissimo. Beh, bello. Sai che nel salutarti ci hanno riversato e ci hanno riempito di mail nei giorni scorsi gli ascoltatori e i fan di Paul McCartney, perché è stato cancellato questo concerto e però l'organizzatore ha detto: vi daremo un voucher. Esiste la cioè se uno compra un biglietto per un concerto di Andrea Bocelli si può rimborsarlo con un voucher, voglio dire, per un altro concerto? Non mi sono mai occupato minimamente nell'organizzazione dei miei concerti. Io so, sono stati cancellati tutti i miei concerti, anche quelli negli Stati Uniti che c'era a giugno, in tutta l'America praticamente, fino a dicembre compreso. Io penso che andranno cancellati anche quelli di dicembre. Sì. Quindi la situazione è veramente... E voglio dire, è un unicum un concerto, cioè se uno compra il biglietto per vedere Bocelli non è che può andare accontentarsi di andare a vedere un'altra persona, cioè, no, con tutto rispetto, problemi, ma uno... Ci sono dei problemi enormi, ma sono di problemi che riguardano tutti coloro che imprendono, tutti coloro che fanno impresa, in qualunque campo. Sì. La situazione è delicatissima, è molto complicata e grave. Sì, sì, speriamo davvero che in qualche modo si riprenda, e che per quest'anno mi sa che no. Grazie infinite Andrea Bocelli, grazie per essere stato con noi. L'abbiamo svegliato, è vero, sì, vabbè, siamo un po' impenitenti. Leonardo, siamo dei birichini qui. Io l'ho detto per 2 anni che questi sono orari innaturali, ma insomma, poi ci si abitua. Come diceva anche Bocelli, ci si abitua a tutto poi. Esatto, io adesso aver svegliato Andrea Bocelli un pochino mi sento in colpa, adesso me la farà pagare, mi dovrà assolutamente fare. Voi qui avete avuto non il pregio, ma anzi la cattiva abitudine di farmi svegliare presto. Questa è una cosa che non riuscirò mai ad accettare. Comunque terribile, è andata così. Terribile. Dovresti imparare un po' con la tecnica Lucchetti. La vogliamo rispiegare la tecnica Lucchetti? Perché molti ci hanno scritto dicendo che tantissime persone hanno questi colleghi che si comportano come Miriam Lucchetti. Allora, la tecnica Lucchetti, che adesso brevetteremo, è? Allora, bisogna passeggiare avanti e indietro per l'ufficio, per le varie stanze dell'ufficio, fingendosi indaffaratissimi, sbuffando, dicendo: non ne posso più, doveva esserci anche questo, avevo già abbastanza da fare, magari spostandosi i capelli, appunto fingendosi molto indaffarati, in modo che gli altri non ti carichino e non ti diano niente da fare, perché pensano: basta, già lavorando molto, lasciamola stare per un po'. E quindi poi in realtà in questo modo riesce a non fare nulla. Tecnica Lucchetti. Può servire portarsi dei fogli da sventolare? Certo, capito, no? Sì, bisogna sventolare dei fogli come se si fosse già impegnati in qualche pratica. Oppure andare quindi spesso alla stampante e schiacciare nervosamente il bottone, come dire: dai, stampa, veloce, veloce che c'ho la riunione. Però in realtà stai passando per andare... Più non lo so, ci si finge stressati e pieni di impegni, meglio è, ovviamente. Meglio è. Avendo tecnica in mano degli oggetti che servono a simulare rispettare questi impegni. Sì, esatto. Sì, sì. Diteci anche voi se avete dei colleghi, c'è chi l'applica con la moglie, addirittura chi col marito, chi tra i familiari. Insomma, la tecnica Lucchetti è una tecnica che ha centinaia d'anni praticamente sui posti di lavoro. Tutti conoscono casi simili. Dai, andiamo a sentire il traffico intanto. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, per fortuna che siamo nelle mani del governo e degli esperti e non nelle sue, di quei cialtroni che continuano a ripetere fesserie più o meno quotidianamente. Ma Leonardo, quest'estate riusciremo a passare da Masone per andare al mare? C'era un problema di traffico prima, tra l'altro. Ho sentito un'oretta fa, c'era una specie di incidente a Masone. Come stanno a Masone? Perché non vai a fare le vacanze a Masone? È l'occasione giusta, Leonardo. Non è già più Lombardia Masone, quindi il primo luogo. Sarà il primo luogo dove andrò appena ci si potrà spostare qui dai nostri confini. Sicuramente voglio andare a Masone. Ma tu non hai paura di come allora verranno accolti i lombardi, nonché? Ma i lombardi di solito non vengono mai accolti troppo bene, vengono sempre accolti con un po' di diffidenza, quindi non ci sarà nessuna differenza. Io però adesso potrò vantare anche le mie origini sicule. Tornerò a ricordare le mie origini sicule. Proprio una banderuola al vento. Una banderuola, esatto, al sì, vento. Sì. Io perciò sono a Milano da qualche tempo, ma fondamentalmente sono un Campobello delicata. Eccala. Io perciò possibilmente vorrei tornare a vivere a Campobello delicata. Augurissimi, cara Elisabetta Fusconi, il neurone funzionante della mattina di Radio 24. Ci scrive, capito? Cioè, se il neurone funzionante di tutta Radio 24 è Elisabetta Fusconi, ragazzi, voi non avete capito. Cioè, andiamo allo sfascio, allo sfascio. C'è anche, dalla mitica chat milanista, Alberto Merlo, avvocato, tra l'altro lui fa parte del team Ciala, cioè di coloro che difendono Cialanoglu, per questo è veramente imperdonabile. Però ci scrive, anche lui ha utilizzato tantissimo una tecnica Lucchetti a militare, ci dicono che molti la utilizzano, passa al superiore e fai finta di pulire un angolo, fai finta di essere indaffarato, grande. Vabbè, penso che sia apprezzabile il fatto che noi l'abbiamo in qualche modo istituzionalizzata. Sì. Abbiamo dato andremo anche all'ufficio brevetti adesso, vedremo un po'. Vai Leo. Allora oggi vorrei riportare alcuni miei ricordi personali. Ieri è morto John Peter Sloan, l'abbiamo ricordato anche noi perché da noi era stato diverse volte ospite. Io lo conoscevo da molti anni, da quando, da poco arrivato in Italia, era salito sul palco di Zelig in alcune serate tutte dedicate ai comici stranieri. Poi lo avevo rivisto in alcuni spettacoli tutti suoi e avevamo condiviso il camerino. Non posso dire di essere stato suo amico intimo, però l'ho conosciuto bene e la notizia della sua scomparsa mi ha addolorato molto. Proprio perché condividendo lo spazio dietro al palco si entra a volte in contatto con le parti più profonde delle persone. Oggi infatti, nei ricordi di John, vorrei raccontare di alcune esperienze vissute nei camerini dei locali. Il primo camerino che ricordo bene era quello della Corte dei Miracoli, un locale di Milano in zona Navigli, dove nel 1989 ho iniziato a conoscere tanti comici di varia umanità. C'era quello che arrivava sempre arrabbiato con la moglie e si sfogava con noi dai suoi problemi matrimoniali. C'era quello che aveva giocato a pallone nel Fano e ricordava come in quei tempi, là a Fano, con le donne lui andasse fortissimo proprio perché aveva un certo riscontro come difensore del Fano. C'era poi il capocomico Renato Converso che bonariamente ci sfotteva un po' tutti. Io ero obbligato ad arrivare per primo e andare via per ultimo perché dovevo imparare e quindi guardare tutti quelli che sul palco avevano più esperienza di me. C'era Eugenio Chiocchi, un grande improvvisatore che ha sempre fatto ridere e che anche in camerino teneva alto il buon umore. E poi a fargli da contraltare c'era quello che arrivava e stava in silenzio quasi sempre, fissando lo specchio per ore e riflettendo sulla sua vita sentimentale. C'era il comico bello che a fine serata aspettava che qualche ragazza andasse a trovarlo e noi gli stavamo sempre accanto sperando che quelle che andavano da lui notassero un po' anche noi. Poi c'era il camerino di un altro locale, il Derbino di Renzo Schiroli, camerino piccolissimo dove si stava in due al massimo e si guardava di straforo il pubblico insieme, interrogandosi su come sarebbe andata la serata. C'era poi la Taverna dei Sette Peccati, un locale dove spesso si facevano addio al celibato e che i comici temevano moltissimo perché quasi tutti gli spettatori erano ubriachi e spesso insultavano quello che in quel momento si trovava sul palco. La Cabianca, altro locale di Milano dove Walter D'Amore, altro comico che non c'è più, ogni sera dispensava consigli a tutti e c'era Franco Visentin che con le sue canzoni, soprattutto di Jacques Brel, ogni sera faceva innamorare qualche donna del pubblico. E anche lì in camerino ci si dava consigli su come fare, su cosa fare durante lo spettacolo. E poi c'è il camerino di Zelig, dove si sta tutti insieme, anche in 20, in 30, quando ci sono le serate di gruppo, ragazzi e ragazze, dove con Giancarlo Bozzo c'è spazio per tutto, dai problemi personali ai consigli di gruppo, e con quel merda, merda, merda, ripetuto 3 volte, che si fa sempre tutti insieme prima di ogni serata, in modo scaramantico. Lì, in camerino, ho incontrato John e lì ho imparato un po' a conoscere la sua forza comica e umana, la sua pigrizia che però finiva sempre per creare qualcosa di nuovo e di successo. Prima gli spettacoli, poi i corsi d'inglese divertente e poi le scuole. I camerini, quando li si frequenta insieme ad altri comici, servono a dare forza prima di salire sul palco. È un attimo magari, ma è uno sguardo vero di intimità umana. Quello mi mancherà di John Peter Sloan, quello sguardo in cui si poteva percepire la sincerità della persona prima di salire sul palco e iniziare a fare ridere. Bravo Leo. Io chiedo oggi anche scusa sui giornali, perché è stato un po' un ricordo personale, ma insomma ci tenevo a farlo. Grazie. Guarda, in realtà molti ascoltatori ci hanno chiesto anche oggi in apertura, io non ho letto gli sms, a dire dite due parole su John Peter Sloan, l'avevamo già fatto ieri, ma quindi hai fatto benissimo a ricordarlo un po' più nell'intimo. E oggi sui giornali, se volete, trovate tantissimi articoli che ricordano quei tratti distintivi che ci hai tratteggiato tu. Allora andiamo al giornale radio. La prima ora di Uno Nessuno 100.000 finisce qui, ci sono tanti altri temi che vogliamo affrontare tra poco. Vai Alpino, ci siamo a chiudere? Vai. Ah, mi dicono che mancano ancora 2 minuti e mezzo, ma com'è possibile? Ho letto che la chiusura è 57.30. Siamo... La mia opinione è che abbiamo 2 minuti perché Elisabetta Rusconi vuole ancora qualche augurio di compleanno. No, allora devo dire, no, allora la colpa è mia, lo devo dire il perché. Perché ieri finalmente si è riallineato il clock del mio computer, cioè l'ora segnata dal computer, con l'ora della radio, mentre prima ero indietro di 3 minuti. Quindi io leggo 9.55 sul clock del mio computer e automaticamente pensavo che fossero le 9.58. Invece sono le 9.55 esattamente. Adesso sono le 9.56, stiamo prendendo ulteriore tempo. Adesso Manera farà un pochino lo stupidino parlando in un maccheronico napoletano, perché dobbiamo cercare allora, di portare abbiamo avanti. Questo compleanno di Elisabetta Fuscioni, una meravigliosa femmina che merita tutto il rispetto da parte di tutta la redazione di Radio 24. Gli auguri vengono anche da tutti gli altri componenti, il direttore Tamburino, anche Sebastiano Barisone e Pierluigio Pardo, tutte convocate, e Maria Pieracesi e tutta la bella famiglia di Radio 24, che siamo tutta una famiglia, una bella famiglia, eh. E quindi non so, ce la facciamo sfogliate lei. Vabbè, e Nicoletta Carbone e Guido Scotto. Augura Franco Scotto, anche il grande responsabile Franco da Bari. Franco e Guido Scotto, augura Franco da Baro. Quante risate ci state facendo fare sugli alberi delle ciliegie? Ah giusto, auguria. Franco raccoglie le ciliegie adesso. Quanto stanno le ciliegie? Perché le trovate a 27 euro al chilo. Vieni a Bari che te li diamo a 2 euro. La ferrovia bella cosa. La Bigor sta iniziando la Forlì. Comunque ad Elisabetta Fusconi, simbolicamente gli offriamo un bel cesto di ciliegie, quelle grosse, la ferrovia, madonna quando sono belle. Poi mamma mia che buono, ciliegie per Fusconi, ciliegie pure ghiotta di ciliegie, grande Franco da Bari, ciliegie per Fusconi, auguri, auguri, dai, auguri, grandissimo. Auguri, auguri, andiamo al giornale radio. Lancia il giornale radio, Franco da Bari, lancia il giornale radio, forza. Ragazzi italiani, fra poco c'è il giornale radio, Radio 24. Non... Ciao, Vincenzo da Palermo, I love my radio. Ciao, sono Riccardo da Genova, I love my radio. Ciao, sono Corrado da Roma, I love my radio. Gli italiani amano la radio. Il 71% la ascolta anche da casa. L'ascolto da supporti digitali è aumentato del 24%. E per il 59% degli italiani la radio è relax e allegria. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani. Anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Uno, nessuno, 100 Milan. All'ufficio brevetti, il metodo Lucchetti. Se non mandano in ferie i lombardi, voglio vedere come va a finire questo paese. Manera, se vieni in Liguria, non passare da Masone, che ti tiriamo i funghi. Se mi danno un voucher al posto del concerto di Paul McCartney per andare a vedere uno spettacolo di Manera, è la rivoluzione. La rivoluzione positiva, forse, però, la rivoluzione positiva. Detto, canterò qualcuna delle mie canzoni, ne ho fatte 15 io di canzoni, eh? Quindi sì. Ne ho, potrei fare un mini tipo concerto. Tipo piscina, da Yesterday a piscina. Vabbè, allora, adesso, questa è la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Vogliamo iniziare questa seconda ora con una notizia che a me ha colpito moltissimo, una notizia, è vero, legata alla cosiddetta cronaca nera. C'è stata la condanna a 7 anni di carcere, 7 anni e 10 mesi per la verità, nei confronti di Sara Del Mastro, una donna che dopo aver stalkerizzato, dopo la fine di una relazione, un ragazzo, lo ha aggredito gettandogli dell'acido addosso. È uno di quei gesti odiosi, terribili, tragici che segnano a vita le persone che lo subiscono. Nel caso Giuseppe Morgante, che non so se è collegato con noi. Giuseppe, buongiorno. No, lo recuperiamo tra poco. Intanto c'è il suo avvocato Domenico Musicco che salutiamo. Buongiorno avvocato Musicco, sì, grazie buongiorno. Di essere qui. Allora, il tema è sempre molto delicato, per carità, io la premessa che faccio sempre in questi casi è non rifacciamo il processo, ci sono le aule dei tribunali, so che però è stata non riconosciuta la premeditazione, anche se ci fu addirittura il famoso programma Le Iene che andò da Giuseppe a raccogliere il suo terrore, la sua paura, pochi giorni prima di questa aggressione. Perché non è stata accolta, secondo lei, questa premeditazione? Questo è un bel punto di domanda, nel senso che noi siamo stati proprio, per sia io che Giuseppe, ovviamente la perplessità più grande è dovuta proprio alla mancata contestazione della premeditazione, che addirittura era stata confessata dalla Del Mastro, nel senso che aveva proprio detto in interrogatorio, sia davanti al giudice che davanti al medico o allo psichiatra, per la perizia psichiatrica, aveva detto che si era decisa a fargliela pagare a Giuseppe dopo la messa in onda della trasmissione, dopo delle Iene, appunto. Quindi la cosa singolare è che il giudice, che il pubblico ministero non ha mai voluto accogliere la nostra richiesta di contestare la premeditazione, nonostante era del tutto evidente che ci fosse. Questo pone un interrogativo se c'è stata in qualche modo una discriminazione a contrario, il fatto che lui, la vittima in questo caso, è un uomo e non una donna. Questo è un tema, guardi, è un tema, perché quando noi chiamammo William Pezzullo, che ha avuto purtroppo un'esperienza simile, lui varie volte ci ha detto, lo dice sottovoce, ma dice forse se fossi stato donna come vittima, forse ci sarebbe stata più indignazione sociale intanto e probabilmente anche una pena più aggravata. Però avvocato, me lo lasci salutare salutare Giuseppe Morgante che ci ha raggiunto. Giuseppe, buongiorno e grazie di essere buongiorno qui. Buongiorno a voi, so grazie che, a voi. So che non è facile perché so che hai subito molte operazioni chirurgiche, non lo so se vuoi entrare non, senza entrare nei particolari, però cercare di raccontare che cosa vuol dire la tua nuova vita dopo quel 7 maggio. Diciamo che comunque è un inferno adesso, nel senso da quando mi è successo il fatto è tutto, ti cambia tutta la vita e poi ti, diciamo, ti distrugge il fisico, perché comunque poi non riesci più a avere le tue abitudini e poi in operazione a sé è sempre, comunque hai sempre quella paura perché vai sempre sotto i ferri comunque. Sì che ormai mi sono abituato con l'anestesia e queste cose, però è una cosa dove comunque ti trovi praticamente a vivere un incubo. Non ci si abitua mai e non, è, non, non ci si può abituare. Certo. Il tema del, il tema molto delicato del sono uomo, forse se fossi stata una vittima donna ci sarebbe stata più indignazione, tu come lo affronti? Ma si dice sempre così alla fine, però il discorso è che comunque non vanno, non devono essere proprio prese sotto gamba determinate cose, perché se uno va a fare una denuncia, eccetera, non va comunque, già per dire un uomo fa più fatica, perché dice, ti vedi grande e grosso, magari poi ti, anche loro quando ti vedono così magari ti fanno questo visione per dire ma sì, ti puoi arrangiare da solo. Se uno va comunque a rivolgersi perché comunque avverte un pericolo e cerca... Sì. Che qualcuno le aiuti, però è vero, perché è, vero, è successo, volte... scusami, è successo che facendo la denuncia qualcuno ti abbia detto ma dai sei uomo, insomma ti saprai difendere, cosa vuoi che succeda? Sì, in senso la prima compagnia, ma si evita, cambiarti numero, fai finta di niente, in senso invece no, sì, lo sto dicendo, comunque questo mi fa le ronde, arrivano messaggi di morte, non sono qui per giocare, sono qui perché c'ho paura e quindi è stato preso sotto gamba. Però queste cose succedono anche comunque anche alle donne, perché non è certo, solo certo, però dici... no, no, ma infatti nessuno lo nega, ma a volte c'è un pregiudizio contrario nei confronti sì, quello uomo, è vero, sì. Perché dicono uomo, è vero, quello è vero, è in grado di difendersi, no, c'è questa frase che quello che è si sbagliato. Va a pensare, poi dopo però accadono questi fatti e dopo lì quando succedono cosa fai? È il problema, sì. Che devono ascoltare di più le istituzioni quando comunque qualcuno si rivolge a loro perché comunque è una determinata situazione che c'ha paura. Io vorrei chiedere all'avvocato, sì, all'avvocato Musicco se può avere avuto anche un ruolo il fatto che Sara Del Mastro abbia scritto una lettera nella quale, adesso poi non sappiamo entrare, però si dica assolutamente pentita e si maledica per aver fatto questo gesto. Avvocato, questo ha avuto un ruolo in fase processuale? Diciamo che questa strategia difensiva è una strategia che spesso premia, nel senso che comunque, a prescindere dalla spontaneità della lettera, una lettera depositata all'ultimo momento prima della sentenza è ovvio che fa parte delle strategie della difesa, quindi può aver influito anche questa nell'atteggiamento del giudice, nella condanna e nel commisurare la pena. Anche perché il giudice è stato più basso della richiesta del PM, che era stato di 9 anni, quindi è stato a 7 anni, 10 mesi, e più ci ha dato un po' di consolazione, comunque di soddisfazione, il fatto che poi abbia ulteriori 2 anni di libertà vigilata, quindi che dopo il carcere ci saranno ancora 2 anni in cui sarà sotto osservazione. Ecco, questo è l'elemento che ci può consolare, tra virgolette, della sentenza. La cosa che appunto ha fatto comunque, che non trovo accettabile comunque proprio a chiare lettere, lo dico, è proprio la mancata contestazione di una premeditazione che era macroscopica, cioè che non... Sì, ma perché Giuseppe, ripeto, aveva denunciato tutto ed è anche pubblicamente, no? Giuseppe, prima ricordavamo la trasmissione delle Iene, che avevano sentito, erano andati proprio a cercare Sara, la quale aveva ammesso di aver compiuto degli atti di stalking, di persecuzione, no? Sì, sì, infatti, ma il discorso poi io quello che ho sempre detto, io dovevo essere supportato da qualcuno, nel senso da chi ho fatto la denuncia, io mi sono dovuto, perché poi mio fratello si è appoggiato a loro perché era preoccupato, loro giustamente sono giornalisti, e riprendevano quello che sta succedendo, che poi adesso anche esce fuori in aula che dicono che è colpa loro, io non ci credo proprio, anzi, cosa c'entrano loro? Sì, cioè addirittura che questo avrebbe spinto allora questa donna a, come dire, ad alzare il tiro. È la cosa che magari domani può succedere, succede un altro servizio del genere, dopo due giorni vedi che questa persona magari viene sparata o gli succede qualcosa, e la colpa è loro, non esiste. No, anche perché questo è un messaggio pericoloso. Certo, perché indurrebbe a dire allora non denunciate, allora tenete tutto nascosto, e invece da anni giustamente si è detto da più e più parti al primo timore denunciate, non abbiate paura, adesso ci sono le leggi che proteggono, certo, poi dopo le storie di vita vissuta dicono a volte un po' il contrario, Anzi è importante, io credo, denunciare anche da parte degli uomini che subiscono violenza. Adesso in Italia cominciano a esserci molti centri antiviolenza che hanno vittime uomini, spesso gli uomini non denunciano episodi che ci sono anche di stalking per un po' per pudore, invece io credo che sia importante rendere noti anche questi fenomeni. Probabilmente sono numericamente meno rilevanti di quelli che riguardano le donne, però sono tanti anche per gli uomini. Giuseppe Morgante, quando c'è stata la sentenza 7 anni e 10 mesi, qual è stata la tua reazione? Ma io l'ho sempre detto sin dall'inizio, perché comunque mi è successo il solito riepilogo che era successo come a Willy, alla Jessica, e anche loro comunque le pene erano basse, comunque proprio poi chi lo passa sa cosa vuol dire, e quando senti una pena così bassa, ma anche se era 12 anni, sono pene bassissime, cioè proprio la legge deve cambiare su questo ruolo, perché comunque è un tentato omicidio, c'è dietro di tutto, perché comunque a parte che è un omicidio di identità, perché poi rovina una persona, poi rovina tutti quelli che sono accanto a te, mentalmente, psicologicamente, e ci sono rimasto male perché è sempre un brutto segnale che si dà che si può fare quello che si vuole, tanto te la cavi, per dire, con 7 anni e 10 mesi, poi magari faranno appello, poi tra una cosa e l'altra, poi magari tra 2 anni è fuori. E c'è il rischio perché dopo deve avere paura che ci succeda ancora qualcosa. Sì, sì, ma al di là del rischio che uno ci porterà sempre a vita, dice: no, no, è chiaro, dice la mia vita è segnata. Sta dicendo, perché ricordiamo William e William Pezzulo, che abbiamo avuto vari ospiti, Jessica Notaro. Insomma, ci sono purtroppo anche loro sono diventati celebri, loro malgrado, per essere stati vittime di questo tipo di aggressione. Ti facciamo tanti in bocca al lupo, Giuseppe, noi siamo qua per quello che possiamo, ripeto, abbiamo seguito anche la storia di William negli anni scorsi, noi vi ringraziamo, ripeto, Giuseppe Morgante e il suo avvocato Domenico Musico. Giuseppe Morgante fu aggredito a Legnano, era il 7 maggio, l'ex fidanzata Sara Del Mastro gli ha gettato dell'acido sul volto, la condanna è arrivata a 7 anni e 10 mesi in primo grado. Staremo a vedere, Leonardo, dobbiamo andare a sentire le informazioni sul traffico, poi torniamo su un po' l'attualità coronavirus con una sentenza che secondo me farà abbastanza discutere. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, sono le 10 e 20 minuti, la sentenza, come al solito, non è che una sentenza faccia giurisprudenza in assoluto, però è una sentenza interessante. Si tratta di un negozio di abbigliamento all'interno di un centro commerciale a Marghera, che è rimasto chiuso per la chiusura del coronavirus, come tutti i negozi, e che ha ottenuto, grazie al suo avvocato, la possibilità di non pagare l'affitto. Attenzione, ci spiega tutto Daniela Iese, che è l'avvocato. Buongiorno. Buongiorno, grazie di essere qui. Allora, io l'ho detto per sommi capi, però è la situazione in cui si sono trovati migliaia e migliaia di esercenti in tutta Italia, quella del suo cliente, no? Perché non è tenuto per il momento a pagare l'affitto? Sì, buongiorno. non è tenuto a pagare l'affitto perché in realtà non ha potuto esercitare la propria attività sostanzialmente. Certo. La norma che noi abbiamo richiamato è prevista nel codice civile dell'articolo 1256, cioè un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ma proprio da parte del centro commerciale. L'appiglio nell'attualità è invece l'articolo 91 del decreto Cura Italia, che ha una previsione ampia sulla impossibilità di rispettare le obbligazioni contrattuali in dipendenza del coronavirus. Sì. Però società, avvocato, questo è questo è per la vostra sentenza, ma secondo lei è applicabile? Cioè qualunque esercente in questo momento sta ascoltando può appellarsi agli stessi articoli che l'ha citato? A tutti perché non è stato possibile esercitare. Loro sono rimasti chiusi, ma come tutti, in realtà da metà febbraio sostanzialmente c'è avuto un calo delle attività di vendita. Poi, come sappiamo, marzo, aprile, maggio, insomma. Quindi assolutamente a tutti, è un segnale concreto quello che ha accolto il Tribunale di Venezia con un decreto d'urgenza, tra le altre cose messo in 5 giorni, in cui ha consentito alla mia cliente di non pagare, alla banca di non versare quanto dovuto in base alla fideiussione che era stata prestata a garanzia dei canoni. Quindi un provvedimento che ha protetto la società a 360 gradi, ma dal mio punto di vista è solo il punto di partenza. Noi abbiamo cercato un accordo con questa società, così come lo stiamo facendo in tanti altri casi, perché assistiamo grandi gruppi, così come il piccolo esercente, la bottega del centro città per intenderci, e spesso e volentieri si riesce a trovare un accordo. Qui c'è stata una chiusura assoluta e quindi il tribunale è intervenuto. Senta, ma questo affitto è sospeso o proprio non verrà mai pagato? Cioè al momento non paga e pagherà o non paga proprio? No, la richiesta è che non paghi proprio. È chiaro che il provvedimento è un provvedimento di urgenza che è stato adottato nell'immediato e a cui evidentemente farà seguito il decorso della causa sostanzialmente. Sì, sì, capito Leonardo, qui insomma, magari tanti commercianti saranno all'ascolto, magari gente che ha pagato non si è posta il problema, magari ha pagato anche contro voglia. Si innescherebbero una serie di cause, credo infinite, nel senso che ci sono tantissime persone. Però ci ha spiegato l'avvocato che in pochi giorni c'è stato un decreto d'urgenza. Sì, sì, dico però ipoteticamente credo che le cause potrebbero essere veramente, veramente tantissime, tante. Tantissime. Cioè lei, avvocato Aiese, consiglia di fare così a coloro che non hanno ancora pagato l'affitto? Io non posso consigliare necessariamente di fare così, io consiglio a tutti di affrontare il rapporto contrattuale con buona fede, con disponibilità reciproca, e diversamente bisognerà fare così. Si può e si deve fare molto per soccorrere le aziende e sostenerle nel passaggio di questa fase che è drammatica e che è ancora agli esordi. I rapporti fra privati, ma anche quelli con le banche, noi ci occupiamo moltissimo anche di bancario, sono opachi. Noi nello stesso Cura Italia, che è quello che ha ispirato questo provvedimento, l'articolo 56 prevede per esempio il divieto a carico delle banche di revocare le aperture di credito e gli anticipi fatture, e in realtà noi assistiamo a revoche di linee di credito, oltre che a ritardi ingiustificati per l'erogazione di finanziamenti che sono previsti, con un continuo stillicidio di richieste documentali che non fanno altro che portare in avanti la soluzione del problema, e le aziende che in questo momento sono in ginocchio. Quindi non posso consigliare di far causa, devo dire che gli strumenti ci sono. Sono dettati dall'ordinamento generale e dalla normativa speciale adottata nell'emergenza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e quindi sicuramente. Quindi se uno vuole può utilizzare queste, certo. No, giustamente lei in maniera molto professionale dice non posso dire fate causa, che sembra di volere intasare i tribunali, però lei dice il mio rappresentato, il mio cliente quindi, ha fatto causa in base a questi articoli e in 5 giorni ha ottenuto questo in tutti i settori, cioè non solo per gli affitti. Per esempio, se qualcuno deve pagare ipoteticamente un fornitore e in quel periodo non ha potuto lavorare, potrebbe rientrare in questa casistica. In astratto potrebbe rientrare in questa casistica, sì. È chiaro che un calo bollette, non è uguale all'altro. Con le bollette, quindi con i rapporti di fornitura anche di servizi? Sarebbe la stessa cosa, perché la norma non fa riferimento specifico al tipo di fornitura, al tipo di fattura, al contratto specifico, riferimento in generale alle obbligazioni contrattuali, che evidentemente devono essere obbligazioni di durata o nella maggior parte dei casi appunto sono obbligazioni di durata, esattamente come quelle date dalle locazioni commerciali, dagli affitti d'azienda, in questo caso era un affitto d'azienda, dalle forniture o tutti quanti i contratti appunto di durata, ecco. Va bene. Senta, avvocato Daniele Aiese, grazie. Ci ha spiegato come il suo cliente non è tenuto a pagare adesso l'affitto in questi mesi di chiusura. Tribunale di Venezia ha disposto così, in urgenza. Leonardo, adesso chi vuole prendere appunti? Ho sbagliato tutto. Dovevo pagare la caldaia. Dovevo finire di studiare giurisprudenza e laurearmi e diventare avvocato, perché per gli avvocati in Italia ci sarà sempre lavoro. Quindi ho fatto un errore. Guarda che molti avvocati ti sentono in questo momento, sai che molti, soprattutto nel civile, sono in grave difficoltà, perché con le chiusure, gli invii delle udienze, saranno lì a maledirti, a dire sono tanti. Sì, ma avrei fatto, come li chiamano alcuni in modo dispregiativo, il parafangaro, cioè quelli che si occupano solo di incidenti stradali, però almeno quello l'avrai fatto. Salutiamo tutti gli avvocati che si occupano del settore fondamentale, cioè quello degli incidenti stradali, e niente, dopo i notai abbiamo perso un altro gruppo molto folto di ascoltatori. Non l'ho inventato io, me l'ha detto un avvocato, non l'ho inventato io. No, va bene, ora gli avvocati civilisti, stimati professionisti che pagano le tasse e che si riterranno offesi da questa cosa. Poi ce l'hai, vuoi dire qualcosa contro i commercialisti? Che così facciamo no, come... Roberto Saviano state... esatto, sì. Insomma, e perdiamo anche tutti i commercialisti. Prego, avanza pure. Ogni giorno scegli una categoria. Tassisti, come sei messo? Ci ascoltano moltissimo tassisti. I tassisti ci sarebbe molto da dire. No, pensa bene, ne avevamo già parlato una volta. Ci sono i tassisti, io per carità ringrazio i tassisti, tutto, ma i tipi di tassisti che non sopporto sono quelli che durante il tragitto vogliono spiegarti il mondo, come va il mondo, arrabbiati e cominciano, perché questo, quello, ma guarda quello là, e tu sei un e po' hanno in una sicumera situazione... straordinaria. Sì, quindi questi tassisti andrebbero un po', insomma, dovrebbero cambiare carattere. Salutiamo tutti i tassisti, sono tantissimi all'ascolto, salutiamo, li vogliamo bene. Spiegare come va il mondo, siete vi abbracciamo tutti quanti, così. Amici tassisti, siete una categoria indispensabile, siete veramente, senza di voi il mondo sarebbe un posto peggiore. Non dovete utilizzare il cliente per fare terapia psicoanalitica. Bravi tassisti, vi ammiro tassisti. Quindi, fate un lavoro eccezionale. Non c'è bisogno che ci spieghiate il mondo durante il tragitto, ecco, non mi interessa. Siete stupendi. Grazie. Comunque, vorrei sposare una tassista. Dai, andiamo a sentire la borsa, va che è meglio, la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento 1, nessuno, 100 Milan. Allora, signori, sono le 10:34 minuti, c'è Roberto da Parma. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Io volevo aiutare i lombardi a muoversi. perché ecco, chiaramente grazie, se non bisogna aiutarli, perché veramente c'è bisogno, e basta che dicano, che non dicano che sono lombardi, fine, non ci vuole il passaporto, è un po' un problema. Vengo da Venezia, di dove sei? Vengo da Trieste, è stupendo, dovremmo fare così. Giustamente, Leonardo, dobbiamo imparare. Tu sei più avvezzo a me. È quello che dicevo prima: che io farò valere le mie origini sicule. Ti ricordi che all'inizio la puntata? Tu puoi fare Sprecacenere, puoi fare Battista, puoi fare insomma un po' di. Va bene, Roberto, accettiamo il consiglio. Cioè, l'importante è spostarsi facendo finta di venire da altre parti. È molto, molto interessante. Leonardo, tu, ricordiamo, insieme ad altri comici ha lanciato un'iniziativa che vogliamo rilanciare adesso. Un pacco allora, si per chiama lo spirito. Un pacco per lo spirito. Se voi ci mandate una mail a unpaccoperlospirito@gmail.com oppure un messaggio alla pagina Facebook Un pacco per lo spirito e ci dite perché per voi lo spettacolo in qualche occasione è stato importante, noi vi manderemo il nostro pacco per lo spirito, vale a dire un video di qualche minuto in cui vi ringraziamo, e proprio per dare una testimonianza così tangibile di quanto lo spettacolo abbia anche una funzione sociale e anche per sostenere tutti quelli che lavorano, sostenere moralmente, diciamo, tutti quelli che lavorano nell'ambito dello spettacolo. Non sempre sono stramiliardari, come succede a pochi, tanti sono persone che lavorano, portano a casa il necessario per vivere e si danno molto da fare quando il lavoro non c'è, come l'ospite di oggi. Ecco, che è l'eccezione che conferma la regola, lo stramiliardario Giorgio Zanetti. Buongiorno. Ciao Alessandro, ciao Leonardo. Avete controllato i conti per caso? Sì, non lo so. Aspetta. Se sei in viva voce, devi togliere il viva voce, disgraziato. Allora, no, sono in cuffia e non so come posso fare per migliorare l'audio. Adesso si sente meglio. Vai, Giorgio. Vai. Allora, non è ovviamente, perdonami la battuta, ma insomma era un assist di maniera. In realtà, il mondo dello spettacolo è molto, molto in difficoltà. Giorgio, come va? Allora, a me neanche malissimo, francamente, perché essendo una persona iperattiva, io non sono riuscito a stare fermo più di tanto e a un certo punto mi si è accesa la lampadina. Ho una grande fortuna, Alessandro, che io vivo in Franciacorta, la Franciacorta è anche terra di opportunità, ovviamente, e ho raccolto un appello di Coldiretti che diceva: ragazzi, la filiera alimentare è a rischio, ci vuole gente che vada a lavorare nei campi. E a un certo punto... Io quasi quasi ho detto: ma sai che ci voglio provare? Mi sono iscritto alle liste di Coldiretti e dopo una settimana mi sono già ritrovato una convocazione. Praticamente ho fatto il mese di maggio facendo il contadino. Stupendo. Quindi tu sei passato da comico a, tra l'altro, anche lavoravi in una radio della provincia di Brescia, e sei passato da comico a contadino in pratica. Beh, in realtà sì, la trasmissione è stata sospesa ovviamente per il contratto fino a maggio, poi riprenderò a settembre ovviamente a fare il mio lavoro radiofonico, ma la cosa bella, ve lo posso dire ragazzi, è il termine con il quale mi hanno definito, lì mi ha stimolato molto, perché una volta si diceva braccia strappate all'agricoltura, in realtà queste braccia stanno tornando all'agricoltura, ma io sono stato definito risorsa, e questo è bellissimo. Risorsa. Bello. Cioè, proprio c'è scritto nel contratto? Essere una risorsa agricola. Una risorsa cosa che agricola. Cosa che prima come comico non ti eri mai sentito dire che eri una risorsa, anzi sempre un po' ti denigravano, cioè una persona inutile, si dice dei comici. Quindi umanamente questa cosa ti ha gratificato. Ma moltissimo, mi ha dato una grande fiducia in me stesso, mi ha dato la sensazione di essere capace anche fisicamente di fare qualcosa di concreto, e vi assicuro che psicologicamente è una bella molla, E poi ho capito tante cose perché mi sono messo dall'altra parte, nel senso che ero controllato da dei datori di lavoro rumeni. E quindi abbiamo capito un po' che ci sono varie possibilità, la scacchiera si muove molto in questi anni. Sì, perché diciamo che nel mondo dell'agricoltura effettivamente sono molto presenti i rumeni. E come andava il dialogo? Esatto, vogliamo sapere tutto. Tanto per federali, calcoliamo una cosa, vi dico subito una cosa fondamentale. Tutti quelli che scrivono e raccontano, sì, però quelli che fanno, che hanno il reddito di cittadinanza dovrebbero essere messi a lavorare nei campi. Non è così semplice, perché il lavoro è faticosissimo e vi assicuro che ci vuole una certa prestanza fisica e psicologica. psicologica per lavorare sotto il sole per 8 ore filate, non tutti sono in grado di farlo. Siamo partiti con una squadra di 38 persone, ovviamente con lo sguardo dei nostri capi un po' di spiego, perché pensavano questi qui sono dei dilettanti allo sbaraglio nel mondo dell'agricoltura, quindi chissà cosa ci combinano. Alla fine, gli ultimi 2 giorni lavorativi li abbiamo fatti con una squadra di 16, perché praticamente la metà è stata cos'è? Sono stati falcidiati nei campi, praticamente. Cioè, cosa facevano? Rinunciavano? Si è creato un gruppo di WhatsApp, ovviamente, per la convocazione mattutina in questo o in quel punto di lavoro. Ogni mattina c'era qualche numero che scriveva abbandonato. Cioè ogni mattina si contavano gli abbandoni, qualche defezione. Senti, ma vuoi anche raccontare le varie fasi di quello che facevi tu? Perché mi hai raccontato che c'erano praticamente 3 fasi, no, nel lavoro che facevi della vigna. La prima settimana è stata veramente tremenda. Vi assicuro che sono uscito dal campo della vigna e faticavo a trascinare le gambe alla mia macchina. È stata una cosa devastante proprio, perché si fa la spollonatura. Sapete la spollonatura? La spollonatura? Spollonatura. No, esatto. Spiegacela un po'. La vigna cresce a cespuglio, cresce con un bel ciuffo alto. Quindi a terra della vigna vanno tolti tutti i rami che non servono e va lasciato un solo ramo, che è quello che diventerà poi la vigna futura nel tempo. E quindi ci deve stare in ginocchio, piegati completamente, strappare tutti questi rami e portarsi alla vigna successiva. Fai 8 ore quasi in ginocchio o abbarbicato a terra. E capito che la terra è davvero bassa. Quindi questa è la prima fase, spollonatura. Questa è la prima fase. Già, se superi questa, quanti hanno abbandonato alla fine? Alla spollonatura. Quindi abbiamo perso 8 nei primi 3 giorni. Scusate se rido, ma in realtà no, perché io me lo vedo Giorgio Zanetti, che conosciamo, fa dei pezzi straordinari. Dovresti, vabbè, poi ci farai dei pezzi straordinari su questo. Comunque, 8 hanno abbandonato. 8 hanno abbandonato durante la prima settimana. Qualcuno è sparito perché probabilmente è stato lasciato a casa per scarso rendimento o incapacità fisica. E ogni tanto in questo gruppo c'era il proprietario del gruppo, l'amministratore del gruppo, che immetteva dei nuovi numeri che sparivano dopo un paio di giorni, quindi non si capiva bene cosa stesse succedendo. Cercava di convincerli forse, ma questi resistevano e dicevano no, ti ho detto basta, no, e si cancellava. Vabbè, insomma, e questa è la spollonatura. E diciamo che questo è stato il lavoro veramente più difficile, e io, tenendo conto del fatto che conosco la mentalità agricola, è stato fatto volutamente nella prima settimana per creare una selezione naturale, ovviamente. Una scrematura, certo. Esatto. Sì. Chi supera la spollonatura può passare. Passava alla pettinatura. La pettinatura. La pettinatura consiste, all'interno delle vigne ci sono tirati dei fili di acciaio. La pettinatura consiste nel far inserire tutti i rami della vigna all'interno di questi fili d'acciaio, in modo che la vigna punti verso l'alto. Al momento della vendemmia la frutta prende il sole necessario per maturare bene ed estrarrà con facilità. Sì. E qui? Come fatica e abbandoni? La cosa bella è che perlomeno si riesce a stare in piedi, questa è già una cosa fondamentale, perché le gambe riposano. Il lavoro è molto nella parte superiore, perché devi con le braccia proprio fare un inarcamento, spostare questi fili, fare inserire. Ma in tutto questo, questi rumeni, i rumeni che erano i vostri capi, come vi trattavano? Cioè, allora, molto seriamente, perché un giorno è passato uno di questi capi rumeni, che tra l'altro con cui ho stretto anche una certa amicizia, poi alla fine, perché ha visto che ero un buon lavoratore, quindi mi ha dato confidenza, gli ho detto: hai visto che bravi che siamo, meritiamo un premio. Lui mi ha guardato e mi ha detto: tuo premio è lavoro. Stupendo, ragazzi, stupendo. È il ribaltamento dell'ottica, veramente. Il ribaltamento dell'ottica, sì. Dopo la seconda settimana, ragazzi, ho notato una cosa, che ho capito tante cose di quando si lavorava i tempi nei campi di cotone, perché per sopperire al sole tremendo, alla fatica fisica, abbiamo cominciato a inneggiare a dei canti patriottici, mistici, corali. E ho capito perché allora nei canti di si cantava molto. Oh mannaggia, no, ma non so se vi rendete conto, tanto magari qualcuno può pensare che possa essere uno scherzo, è tutto vero quello che ci racconta Giorgio Zanetti, non è un pezzo, non è un pezzo comico, è vita vissuta, vita vissuta. Però, però anche tu Giorgio, se ce la fai fisicamente, fai parte di questa iniziativa Un pacco per lo spirito, se, se riesci. Però ho anche delle buone notizie, ragazzi, perché adesso per quanto riguarda il mese di luglio-agosto invece ho trovato un lavoro molto più rilassante. Cioè, andrò a fare il bagnino sul fiume Trebbia, e non è uno scherzo, nel senso che andrò a dare una mano a un'amica che gestisce un ostello dalle parti di Bobbio e lì mi rilasserò un po', insomma. Stupendo, il bagnino sul fiume Trebbia. Ragazzi. Oh, quando si dice che gli italiani non si danno da fare, Giorgio è l'esempio di una persona che in un momento di difficoltà col suo lavoro sta veramente facendo tutt'altro, no? Si sta dando da fare per trovare altri lavori. Cosa che io per esempio non sarei in grado di fare. Io avrei abbandonato dopo mezz'ora della spollonatura. No, ma invece tu, Leonardo, perdonate, ma tu sei molto più famoso di me, con te avrebbero avuto un occhio di riguardo. Ma no, secondo me avrebbero infierito. No, e meno male, e meno male che qualcuno non abbia detto, non ti abbia detto quella frase che so che tutti i comici odiano, eccetera. Oh, sei un comico, dai, facci ridere, facci ridere, come se uno fosse lì, no? Ma ci hanno provato, ci hanno provato. Allora, ti spiego, alla fine questa squadra era formata soprattutto da ragazzi neo, siamo rimasti a parte un paio di vecchietti noi, ma poi tutti ragazzi neolaureati, giovani, quindi di prestanza fisica importante, che sono comunque alla ricerca di un lavoro, un ex rugbista, insomma, è rimasta gente come se, e hanno cominciato, dai, facci ridere, facci ridere. Detto, ragazzi, ci ho detto, non è il momento. Allora c'era lì anche un odonto tecnico, gli ho detto, allora se tu mi fai una dentiera io ti faccio ridere. Giusto, giusto, giusto, mi sembra giustissimo. Giorgio, noi ti ringraziamo molto per questo racconto di vita vera e anche per questo bello, belle risate che ci hai regalato. Giorgio Zanetti fa parte anche lui della schiera di comici che aderisce a Un pacco per lo spirito. Ricordate la mail, un pacco per lo spirito, @gmail.com. E vi arriva un bel pacco, magari un pacco da Zanetti, insomma, magari un pacco dai rumeni di Zanetti, che secondo me da scritturare non sarebbero male, potrebbero regalare qualcosa di divertente. Va bene, Leo, dobbiamo andare al traffico, dai, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, che bella pagina, caro Leonardo, alle 10:48 minuti e dopo una bella pagina di divertimento, cosa ci può essere per compensare? Così, anacleto. Buongiorno, buongiorno e viva la chiesina, sempre. Viva la chiesina, sempre. Viva la chiesina. Dillo anche tu, Leonardo, dillo anche tu, Leo. Dillo, Leonardo, sono a lavorare con il più... Sono a lavorare con il più bugiardo della Val di Nievole, stamani. Ti dico, Leonardo ti piglia il tacco. Nome non ne può, ma mi ha detto, ieri sera è cascato dalle scale, si è inclinata la spalla, è stata fino al, è al pronto soccorso fino alle 4:30 qui a Pescia, e poi stamani è venuto a fare un lavoro con me. È vero, Dio buono. Ora è cresciuta una scala allora, che canta, bugiardo? Che canta, senti, canta Pinocchio, ma per voi, hai capito? Vabbè, ma Anacleto, ma tu che vuoi? Ma tu lo sai, oggi è un giorno particolare per noi. Lo so, è anche... il compleanno di Sissi, la professa della Svizzera. Ma che Sissi? Ah no, attenzione! Che parla tutto così. Sì, è quella che sembra che ci abbia qualcosa in bocca, tutta regolare, sembra che essendo svizzera, sai, una parola di più, una parola di meno. Te la fido, Anacleto. Allora, Anacleto, dimmi. Vabbè, cara, ma almeno oggi spendi delle parole gentili, dai, ma, nei miei confronti. Ma io lo so, ora andrò stasera, se me lo fanno vedere i figlioli, perché ho un telefono da 329,90 e mi faranno vedere su Facebook e guarderò come sei, perché non t'ho mai visto. Io ho visto solo questo. No, ma non ho capito, prima devi decidere com'è. Ma guarda che sei Anacleto, veramente... così sembri un po' un pervertito, la signora per gala... capito, io sono regolare per queste cose. Anacleto, sai che ormai ho un numero di anni che si avvicina a quello di Cirino Pomicino, quindi... No, io ma non ho 75 anni qui, ragazzi, uno spirito da ripiglio di tacco tutti questi alla radio. È vero, io e te possiamo annoverarci tra quelli che vantano di aver visto e vissuto ormai le varie repubbliche italiane, la prima, seconda, la terza, vero? Siamo qua. Senti, Maria, lo sai, l'altra sera eravamo già con dei miei amici, organizzavo il mio funerale. Mi manca Ducambi, perché sono quattro, mi portano a spalla, no? Perché da Chiesina, dalla chiesa di Chiesina a Casalesi. E te ne mancano altri due cambi. Ora si sto trovando Cambi, perché fino lì poi mi mettono nel... Io mi calma, ma perché uno deve organizzare il proprio funerale alla tua età? No, perché mi calma, intanto bisogna morire, come dice, ricordati che devi morire, hai capito? Vabbè, insomma, Anacleto è così. Ma in tutto questo, aspetta, Elisabetta Fusconi, come va? Cioè, Leonardo, è il compleanno di Elisabetta Fusconi, cioè una roba, tanti auguri. È un giorno amaro, Leo. Sì, no, abbiamo più volte prima ti abbiamo manifestato la nostra gioia. Ce l'abbiamo qui di fronte, possiamo cosa possiamo fare? Sto anche ballando, mi spiace non siete qua in studio, ma... Cosa possiamo fare per te in questo momento di distanziamento sociale? Non so, liberami dalla... Liberami, perché questo genitiliaco non fa che ricordarmi da quanti anni ti sto dando retta a Lino Milan. No, ecco, diciamolo, da quanti anni lavorate insieme? Da quanti anni lavorate secondo insieme? Secondo me ormai una quindicina tutti. Potrebbe io credo essere. Anch'io dal 2004 al 2005 abbiamo iniziato che penso... eravamo giovani, è vero. Sì, se ci penso mi viene veramente un magone incredibile. È anche una un po' il tuo compleanno, anche un po' quindi di amarezza, cioè. Sì, è un giorno amaro, un giorno amaro. Esatto. No, è un giorno bellissimo, sono felice, c'è il sole, c'è una bella atmosfera, c'è la ripresa. Ho solo avuto una bruttissima notizia, oggi ho letto sul giornale, mi annoio un attimo, che causa lockdown chiude un bar storico a Milano. Chi è cresciuto negli anni 90 a Milano se lo ricorderà, il bar Rattazzo. È un bar che ha tenuto compagnia a tutti i giovani milanesi e l'ha fatto fino all'altro giorno, e ho letto che purtroppo non ce l'ha fatta. Questo è l'effetto Manera, vedete? Sì. Diventiamo tutti così. Poi, addio bar Rattazzo. A frequentare Manera ci si manerizza tutti, l'amarezza... così, mi rendo conto che forse a Giuseppe da Empoli interessi molto poco, o forse anche Teresa da Licata, forse anche ad Anacleto, ma ci tenevo a spendere due parole in nome del bar Rattazzo, bar storico come di Milano. Come fanno invece gli Anacleto i bar a sopravvivere in questo periodo? Lì a Prato, sì, c'è una gringhetta, si beve ucchia normale, ma non più come prima, hai capito? Qui a Chiesina, siamo spenti, c'è il bar Milano lì, ma insomma lavoricchia anche lì. Niente. Poi, Anacleto, da quando conosce Manera, Leonardo, da quando ti conosce, ha iniziato a pensare al suo funerale. Cioè, non so se vi rendete conto, stiamo spandendo dell'amarezza così a mucchi. Ma si è ripreso da quel trecentino che ha speso venendo, perché secondo me sei bastardo dentro. Guarda, quando avrò tempo racconterò, adesso non abbiamo tempo, ma quando abbiamo tempo racconterò di un episodio che mi capitò proprio vicino a Chiesina, uno spettacolo che feci. Non ci credo, non me la dici, tanto non ci credo. Domani a quest'ora più o meno Leonardo racconterà questa cosa. Intanto ti salutiamo, Anacleto. Ciao, saluta la Chiesina. Grazie del pensiero. Ciao Miriam, viva la Chiesina. Va bene, sì, ciao, ciao, ciao Miriam, ti ha chiamato Miriam, va bene, ciao Maria Miriam, anche Luchette. Prima vedo che ogni Maria me no Maria, ah, Maria sono sei io. Tu ah, ok Alessandro benissimo Maria, ok chiama, tutto a posto e lavorano insieme da 15 anni sì esatto e non lo sapeva neanche che mi chiamo Maria di secondo nome. Vabbè Fusconi, di al mondo come festeggerai oggi, dai hai 20 secondi lavorando su, da vera lavorando. Milanese imbruttita come Zanetti, oggi come lavoro produco porto fatturo oggi fatturo. Grazie a tutti per i pensieri che sono arrivati, grazie davvero, mi avete fatto felice. Grazie, vai a lavorare Leonardo, è come Giorgio Zanetti, il suo premio è il lavoro, il suo suo regalo, il suo regalo è il lavoro, come gli ha detto il rumeno. Va bene, dai, ci troviamo domani alla stessa ora, ore 9, siamo qui. Ciao. Uno, nessuno.